5A. Ascolta e rispondi. Devi lavorare oggi? No, non devo lavorare oggi. Devi andare in banca oggi? No, non devo andare in banca oggi. Devi fare spesa domani? No, non devo fare spesa domani. Devi accompagnare la zia? No, non devo accompagnare la zia. Devi partire subito? No, non devo partire subito. Dovete comprare i biglietti? No, non dobbiamo comprare i biglietti. Dovete pulire la camera? No, non dobbiamo pulire la camera. Dovete chiedere il permesso? No, non dobbiamo chiedere il permesso. Dovete usare il microfono? No, non dobbiamo usare il microfono. Dovete visitare il Duomo? No, non dobbiamo visitare il Duomo.